A Rock FM sono le 7:31 e 34 secondi. Il che vuol dire che forse sono le 7:30 precise per quelli che hanno gli orologi giusti. Questa è Pane, Burro e Rock and Roll. Una trasmissione che regala emozioni. Let the sunshine. Lasciatelo splendere, amici. Let the sunshine. Let the sunshine in. The sunshine in. Ciao Gian. Ciao Stefano. Ciao Gianfranco da Napoli. Smettila di dirmi che dovrei venire lì, che ci sono gli omini che fanno jogging e le omine. Che credi? Mi piacerebbe venire a trasmettere da Napoli, che guardo Gulf da Napoli anziché Vittor Pisani. Ma non posso, siamo qua a Milano. Chiediamo scusa a Davide, bar Uomo Colloquio. Stamattina alle 5 sul water sfogliavo una nota rivista chiamata Max e ho trovato Fricantoni che mi guardava dalle pagine del giornale con un teleobiettivo eretto. Sono rimasto sconvolto, scusaci Davide, perdonaci. Sono scatti che pensavamo fossero spariti. Let the sunshine. Certo zio Pampu, sono usciti i numeri. Ma noi non li avevamo giocati giusti. Un saluto anche al cattivissimo Franz Max, giammai patentato, che mi sgrida: la butti giù un po' troppo alla Nazional Popolare. Ma bella lì Ariel, siete unici. Vostro affezionato. Ma un tempo silente a causa errato numero SMS. Lo so che ogni tanto si è Nazional Popolari, ma perché vogliamo batterli tutti? Hai capito? Giochiamo un po' sporco. Ci piace il gioco sporco. The sunshine. Let the sunshine in the sun. Un saluto anche ad Andrea da Gorgonzola. Che ficata nascere a Gorgonzola. Manu si riferisce all'almanacco questa. Ha visto l'inizio politicizzato che ce la siamo presa sia con l'America che col Vaticano, così a inizio trasmissione ci sembrava carina come cosa. Non vogliamo pungolare un po' anche Putin, così, tanto per far par condicio, no? Ce la mettiamo su anche con la Russia. Beh, Manu, ci pensiamo un attimo, Anche perché scrive, al massimo arriveranno 8 uomini con auto blindata che guardano la vostra finestra in via Vittor Pisani. Ecco, sì. Forse sono meglio gli uomini che fanno jogging, se... Non ce la sentiamo. One Night Love Affair, Bryan Adams. Che delirio, ragazzi. Non si può avere un delirio così alle 7:30 del mattino. Bisognerebbe fare un programma tranquillo, rilassato. Subito agitati dalle prime ore dell'alba. Io non so come fate voi ad ascoltarlo. Qui è dura per la redazione che sta impazzendo dietro ai vostri messaggi, dietro alle vostre proposte. Rispondete sempre, numerosi e puntuali. Stanno saltando fuori tante buone idee per altre rubriche gestite e curate da voi. Ne abbiamo altre che già sono cominciate e che andremo ad ascoltare nel corso della puntata. Io non so cosa, cioè, più che dirvi grazie non posso. E sarò nazional popolare. Stavo pensando che, guarda, che fare un piccolo studio di Rock FM sul Golfo de Napoli sarebbe fico. Carlo, se la prossima volta mi azzecchi Lambo anziché fare il fico e giocare solo la terna, ci facciamo uno studiolo a Napoli. Mettiamo pure il tabaccaio lì sotto, se ce lo fanno aprire. Se no lo facciamo a e trasmettiamo col Golfo da Napoli davanti. Potrebbe essere carino, eh? Anche se via Vittor Pisani ha comunque il suo porco fascino. Non mi dilungo ad altri sms che invece dovrei assolutamente leggere, anche perché è parecchie puntate che stiamo saltando l'angolino dedicato ai ritardatari. Qualcuno di voi si è pure lamentato di questa cosa. Oggi per fortuna il buon Frick ha una scusa fresca fresca di giornata. Siete in ritardo? No problema, ascoltate qui. Servizio a favore del radioascoltatore. Il ritardatario ritardato. Non frapponete alcuna remora morale tra il problema e la sua soluzione. La scusa di oggi, interpreta il maestro di giustificazioni Roberto Friccantoni. Salve direttore, come va? No, era una domanda senza tentativo di imbonimento, per carità. Io so di aver sbagliato e dunque le chiedo scusa. Ma ho una spiegazione, la prego, mi dia modo di farle capire cosa mi è successo. Sa, io ho una grande passione per la musica, pertanto suono in un gruppo. No, non ho fatto tardi le prove, no, assolutamente. Il notevole ritardo di oggi è dovuto al fatto che, dunque, ieri sera io ho suonato con il mio gruppo, i Crimini Plurimi, sì, è un po' hard, facciamo del rock abbastanza tosto. E a fine serata io, a nome di tutto il gruppo, sono andato a chiedere i soldi, a reclamare il cachet, come si dice. E il gestore invece mi ha fatto notare, e poi successivamente ho coinvolto anche gli altri, che il totale del costo delle consumazioni che avevamo bevuto, mangiato, insomma, tramezzini, birre, qualche superalcolico, pochi peraltro, insomma, comunque il costo delle consumazioni era più alto del cachet pattuito. Insomma, direttore, per farla breve, gli dovevamo 1300 euro. Il ritardatario ritardato. Non dimenticate, una buona scusa è quello che ci vuole per qualsiasi ritardo doloso. È un servizio a favore del radioascoltatore offerto da Rock FM. Come dice quella storia di aver bevuto e consumato più del cachet, le ricorda la scena di un film famoso, i Blues Brothers, ecco. Mai visto, io non l'ho mai visto, però strana la sua cultura rock, eh? Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say this town don't look good in the snow. You don't care, I know. Ventura Highway in the sunshine. where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Blowing through your hair, and the days surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air, in the air. Falling star, waiting for the early train. Sorry, boy, but I'll win you by purple rain. Oh, come on, Joe, you can always change your name. Thanks a lot, son, just the same. Venture a highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. 'Cause a free wind is blowing through your hair, the days surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air, in the sa se sarà un super weekend di rock and roll, ma sa cosa le dico, freak? Non lo so, non me lo ne dica. Può fottere di meno, perché ci sono i compleanni del giorno. Certo, certo, certo, come disse Claire Gable al termine di Via col Vento, sì? Non me ne può fregare di meno. Non credo dicesse proprio così, ma più o meno. Circa, no, cosa circa. Diceva? Lo dica bene, filologico. Diceva, domani un altro giorno. No, quella era, quella era lei. Sì, ma lui dice prima che lei, ecco, dica domani un altro dice giorno, non me ne può fregare di meno. Va bene, ok, andiamo con i compleanni di quest'oggi, 1882. Sa cosa dico? Me ne frego. Me ne infischio, me eccolo. Me ne infischio, eccolo. Sa cosa dico? Me ne infischio, ma non certo di oggi, venerdì 19 ottobre. Cosa fa lei? Io me ne infischio. Risata obbligatoria. 19 ottobre 1882. Ci dica cosa succede. Umberto Boccioni, grandissimo pittore, scultore italiano, futurista. Bravo, uno dei padri del futurismo, la madre del futurismo. No, no, la madre, ricordo il celebre dipinto. Ah. La madre del futurismo. No, la madre di Boccioni, Cioni, nel quadro che si chiamava La Madre. Futurista? No, lui, va bene, sì. Passiamo. La madre futurista. Passiamo al 1944, laddove il 19 ottobre, sì, venne al mondo colui, chi? Che insieme a Bob Marley si faceva le canne. No, non dica così. No, okay. Non si può dire dal microfono di una radio timorata. Sì, esatto. Timorata chi era nasceva? Giusto? Sì, era, ma giusto. Tanto non so, sì, quel che dico. Nasceva Peter Tosh. Peter Tosh, che insieme a Bob Marley è responsabile di aver diffuso il reggae in tutto il mondo. Restiamo sulla musica in levare, perché festeggiamo nella data odierna anche Daniel Woodgate, batterista dei Madness, che nasceva nel 60. Posso dire che ho ammirato il suo aggancio. Ha visto? Tra il levare, tra il reggae e lo ska. Sì, sì, sì, sì, sì. Mica male, bravissimo. Chiudiamo con un pugile, in quanto pugile rocker. Certo, contravvenendo però ad una delle regole fondamentali della nostra religione, sì, radiofonica, non praticare, non parlare, soprattutto, sì, non praticare alcun tipo di sport. Esatto. Ma comunque per il pugilato. Chiudiamo un occhio. Chiudiamo un occhio anche tutti e due. Nasceva nel 1862 chi? Ah, un grandissimo pugile. Dica. Ecco, ecco, ce l'ho qua sulla punta della lingua, ma forse è meglio che lo legga. Vediamo. Evander, sì. Evander. No, era giusto. Evander. Evander. Sì? Evander Holyfield. No, ma che Holyfield? Lei che sa l'inglese. Holyfield. Holyfield. Pugile statunitense. Pugile statunitense. Bisogna fare molta attenzione alla pronuncia, Mi sa che stavolta esca da questo corpo o la picchio. Oggi l'ho innervosita parecchio, Mi sa che oggi mi picchia sul serio. Colpo di aia, che dolore, ai, questo è poco professionale. La smetta di picchiarmi, Esca da questo corpo! La smetta di picchiarmi. Basta, mi sta facendo male. Hai la protesi, ai, la protesi, ai, che dolore. So l'altra parte del testo. Alabama get away, get away. Alabama get away, get away. Only way to feed me just to run and even walk away. Alabama get away. I Grateful Dead. Alabama get away. Una trasmissione radiofonica orfana del lampione crepuscolare che si è spento ormai da un po', ma c'è talmente tanta energia stamattina che non me ne ero neanche accorto, mentre mi accorgo sempre della mancanza dell'omino che fa jogging in via Vittor Pisani, ormai ufficiale, lo abbiamo completamente perso, però segnalo che il radioascoltatore PG mi scrive: allora, questo ritrovo tra runner di Rock FM si organizza? Allora, come ha giustamente detto Freak qualche minuto fa, la nostra religione ci impedisce di fare dello sport, soprattutto nelle prime ore del giorno. Sapendo che alcuni di voi hanno il coraggio, l'abilità e l'arguzia di farlo, invece, se, guarda, non so come dirlo, PG, a me farebbe, cioè mi gonfierebbe il cuore proprio di gioia vedervi lì sotto in via Vittorio Pisani che correte, e ripeto, io posso incitarvi col megafono, però non saprei come organizzarla. Cioè lui c'è, se c'è qualche altro pazzo che se la sente di venire a correre in via Vittorio Pisani, potremmo da lunedì, questa è la proposta che vi faccio, iniziare a organizzare un raduno che potrebbe essere poi per venerdì prossimo. Io l'ho buttata lì, PG può essere il coordinatore di tutto. Non so, anche due o tre, a me ne basta anche uno, ragazzi. Cioè, prima ce n'era uno solo, adesso non c'è più, perché ho urlato dalla finestra, si è spaventato, però se ci siete voi dovrebbe andare bene. Quindi PG, ci si risente lunedì e organizziamo il raduno per venerdì dopo. Un saluto a Sam da Firenze, un saluto ad Ale e ai suoi Gionatta, gioenatta.com. Andiamo a salutare, vediamo un po'. Sì. Patrick da Milano che ha recuperato il calendario di Frate Indovino, ma oggi Patrick abbiamo abbiamo uomini nudi oggi. Abbiamo Rosy che è pronta con gli uomini nudi, quindi magari ti sposto la settimana prossima anche a te. Davide da Lissone, sentite cosa mi scrive, una volta la morte non mi spaventava, ma adesso sì, perché in paradiso o all'inferno non si può ascoltare Rock FM. Ciao Davide. Poi non ditemi che sono nazionale popolare io, Un abbraccio anche a Enrico, che si propone per una rubrica sul cinema ogni mercoledì. Beh, può essere, lui se lo guarda il mercoledì sera e il giovedì lo recensisce. Ma è una buona idea, Enrico, sono tutte buone idee. Anzi, io devo ringraziare, questo ce l'ha avuta forte l'idea, Una mail intitolata Davide Battegolia, che è il nostro... Uffa, sono già fuori di tempo, non posso leggerla. La leggo dopo allora. Comunque, caro Paolo, se mi stai ascoltando, l'idea è galattica. La leggo tra un po'. Proseguiamo con la nostra trasmissione delirante. Salve, Giovanna. Ehi, sono Ariel. Il mio nome è Roy. E il mio è Ariel, ciao. Sei del Texas? No. No, di Gallarate. Anche tu? Anch'io? Gallarate Uber Alles. Is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. Cosa c'hai nelle mutande? No, niente, Rogna, non so, stavano sperimentando quella nuova medicina per il mal di testa, ma in realtà il mal di testa non passa. In compenso sono 3 giorni che sono barzotto e tutto arrapato. Guarda, stammi alla larga, se no mi faccio pure te. Dai, Frigo, smettila di strusciarti sulla gabbia. Vai, piantala, ti farai del male. Basta, Frigo, trattieniti.